periodo poi non ce la fai più, come sa più io, vento, vito e buonanotte. Adesso ne devi approfittare, questo mese. Perché poi fa vento, è un casino lì, lo so. Ma quella tu l'hai fatta l'antenna lui? E quale? L'antenna che stai usando, quella lì, tu l'hai fatta? Quella lì sto usando adesso. Che mi dovete scusare, ma se si scaricano le batterie o passiamo ai 27, boh. Io sono 23, io c'è già, sono 23. Io ci sono già. No, io non ne attacco, andate tranquilli, tanto io fra un poco devo chiudere, che devo fare cosa. No, vabbè, io ho detto finché dura la batteria qua. No, io già sono anche qua, non ne ho problemi. Sì, claro, l'ho fatta, e non la vedi com'è fatta. Ho comprato dei connettori tempo fa, così, per divertimento. Però non so se sta uscendo bene, boh. Tarata è tarata, però. Luca, ma quelle luci tricolore che via la sali dai noghi, tu le avevi messe? L'altro giorno dalla finestra in camera da letto ho visto verso casa tua, bianco, rosso e verde. Batteria scarica, Claudio. E non hai altre batterie? Aspetta, accendo l'altro portatile. Claudio. Sì, dimmi. Io sto chiudendo, saluto a tutti, perché sto scendendo giù. Non posso entrare, ok, ci sentiamo più tardi. Sì, va bene. Aspetta Luca, mi sto memorizzando il numero tuo, così mi metti su WhatsApp. Ok. Mi senti adesso? Sì, sì che ti sento. Ecco, usando l'UV5, il Baofeng con l'antennino di coppa. Il? Cosa stai usando? Ten 2. Avete parlato in due, grazie. Adesso c'è il V5 con l'antennino in gol. Sì, ma il numero tuo è sempre quello, eh? Il 434 finale, sì. Ok, riprendi, grazie. Eia, no, già stai uscendo ugualmente, Luca. Perché stavo usando il GT5 prima, con l'auto costruita. Adesso la metto qua, vediamo un po'. Eri più squillante con quello là. Vai Emanuele, che sto registrando il numero di Luca. Quando sei? Tutti pari adesso? No, sono qua che sto registrando il numero di Luca. Ho capito. Tore, lo butto uccidere perché doveva fare cosa? Mi ha dato Dore, ha portato Luca a me fuga. Sicuramente, a portarlo giù. Oh, grazie. Ehi! E adesso ho messo l'auto costruita nel Baofeng V5. Anzi questo passaggio ti ho sentito più forte. E questa è l'auto costruita, l'antennino che ho fatto. E ho tolto il gommino suo, non so, sicuramente mi sentirà meglio anche Claudio. Sì, è più squillante, è più forte. Ehi, Alu, ti sento benissimo. Ho messo quell'antenna, quell'auto costruita. Di lusso stai andando, aspetta che ti memorizzo. Riprendete voi, già sono qua io. Io c'ho sempre la sua antenna, quella fine fine, lunga 10 cm, forse di più. Attento, grazie a tre rodi. Ehi, cazzo di un altro a curva del semaforo, dove c'è il dottor Cavallini? Mi sei alzata la moto a due rodi. Già ti ha giovito di fianco, infatti. Ha detto, ma è? Poi da razza in pratica che... Di boh. Se non vado un osso, allora siamo andati sempre a questa moto. Sei proprio assata, vera, dottor Cavallini. Cazzo, mi ha fatto di mano. Anche se sono andato entrando veloce. Questa moto è come ti dice che avevi il manuale. Ok, Lu, ti ho inserito perché già avevo il numero nell'altro telefono. Quindi adesso ti ho rimesso dove eri, nel telefono che usavo sempre. Quindi adesso sei su WhatsApp di nuovo. Sì. Così faccio le foto e te lo faccio vedere, perché non è difficile, capito? Non è difficile, però bisogna stare ben attenti, ben attenti. Avevo visto anche Comacimiliano, capito? Ecco qua, sei già arrivato a posto. Così siamo su WhatsApp, perché ce l'avevo nell'altro telefono e da quando l'ho cambiato non te l'ho mai aggiornato. Avanti, siccome ce l'avevo l'ho rimesso, capito Lu? Non è un lavoro, però bisogna stare ben attenti. Vivo gente che rugabbe in altro godo, perché si può sbagliare, è un casino. Fermo vanno, mi capito mi hai? Sì, eia, bisogna stare attenti, quello sì. Mia zia abita lì vicino, vicino proprio a te, che gli hanno dato le case popolari. E il terrazzo è una meraviglia, e vedi, si vede il tuo palazzo di lusso. Da casa tua? Da casa di mia zia, lì. Dove c'è la piazza, quella zona lì, gli hanno dato la casa. E c'è una piazzetta lì che fanno anche i concerti d'estate. Sì, hai visto che ci manca la 3 elementi, non c'è più, c'è solo la 5 elementi e boh. Capito? Quella l'ho tolta da sola, è ancora su, manco smontata raggio, ci sono le bobine agganzate ancora, tutti i radiali, tutte e tre i radiali, 10, 15 e 20 sono in terra, lì, e te non li ho voglia, capito? No, Giovanni, sono fatto, però anche quella è da fare, bisogna smontarla e portarla dentro, perché se poi inizia a piovere forte, tutto l'inverno mica lo puoi lasciare fuori, che non va bene, capito? Comunque, vabbè, dai, ci organizziamo, adesso vediamo. Avanti, Manuel. E a me, adesso ti devi attrezzare, mio clan, non farlo da voi, che da voi ne sa fa ora, vento, e non ha se più da voi. Non ne sa fa tempo male, da voi non ha se più, eh. Dopo è un casino, poi è un casino salire lì. Già devi salire e avere la fortuna che non ci sia vento. E poi anche altro lì, cazzo, non è come te noi, no? 40 metri so, noi bucciai gioca. 40 più 3, 43 metri so. Bisogna stare attenti, dai. Sì, ho visto il video, Lu, ho visto il video, già va bene. E sto usando il 599 io. Il veicolare che usavo in macchina, quello con frontaino estraibile. Già va bene, ce l'ho a 5 watt. E il microfono è il 60, perché c'ha lo stesso attacco del K, capito? Ebbene, grazie, ma quindi il tuo motocarro funziona bene? Ma è un motocarro, è una moto a tre ruote, puoi sedere in due, capita, è un treno, so che ho parlato pure, in campagna la migliore, a più chiudere le punte, a marcia della fava, e la migliore è parlata pure a posto d'ora, posata in due, capita, è un treno. Lu, ma scusa un attimino, sto sbagliando, scusa, il motocarro non è a tre ruote, non può essere uno scooter, se chi sia a tre ruote è un motocarro, no Lu? No, quello è elettrico, quello di Graziano, 60 km di autonomia. 60 km, prendi ti attacchi la brezza al culo da voi, mi Graziano. Quella c'ha 60 km di autonomia. Però se voglio mi pongo altre tre batterie di sotto lo sedile, quando sono carichichi con un cavetto collego quelle altre tre e ne fa 120 km. Gappa gappa, bello quel vintage, bello. Grazie. Ehi. No, ci ho compreso una cosa, Manuel. Sei Lu. Allora, Graziano, ciao. Non ho capito. Non una, no, trenna. Come fa la, diciamo, la tua a fare gli stessi chilometri? La mia. Già mai compreso. Cosa ti fa? Ti fa, mi sembra, allora, quindi 30 chilometri ti fa, non 15. Ah, 30. Quella di Graziano ne fa 60. Mi pare strano, perché quella di Graziano è più grossa anche. Capito? C'ha tre batterie. Raggio qui su Manzano. Sicché mi sembrava strano che la tua facesse gli stessi chilometri della sua. 30 chilometri ti fa. Grazie a una babbo ribaltabile, di vero, grazie a canna embriaco, basta che accelera e si ribalta. E allora, vado pure a retromarcia, e va tutto, non hai visto sta male, capita. A Dio Maria le piace da me, pure che andate pure sulla retromarcia. Sì, che io sono usato per mettere un baracchinetto piccolino, per il PMR. Con un attimino piccolo dietro, adesso è una gannonata, esci. Lo so, se voglio mi posso attaccare pure lo stereo, perché c'è anche lo spazio. A voglia, anche il baracchino se voglio ci metto. Ma la lucifa, che andava lì. Però la signora Ivi mi chiede a Gio Maria Luca, ha voluto l'indirizzo dove l'ho comprata, il numero di telefono mio, se gli serve qualche informazione. A chiamarci la biglia bruissa, una donna per il padre. Come te l'hanno portata, Grazia? Come me l'hanno portata? In nave e poi in camion, sino a qua. Ah, direttamente col corriere è arrivata, ho capito. Prima è arrivata in nave, dalla Gran Bretagna mi è arrivata questa. Io l'ho ordinata in Gran Bretagna, infatti per l'inglese, a chi io non ne so occupare da, gliel'ha detto mia nipote, ci ha parlato qua, capito? Oh, perché lì ho pagato in euro, però in sterline faceva di più, cioè quello che volevo pagare io non bastava e dovevo pagare in sterline, poi hanno fatto il cambio, un casino là, un mese e mezzo i rumi. Ho capito, cosa hai detto lui? Tu devi pagare in pound, no in sterline. Ehi, ma lì c'è in sterline, vabbè io pago da buia. Si ribiglia, non si ribiglia, perché l'ho fatto tracolare per i palmi, capito? E comunque molto molto bella, sarà solo lui la stessa lì, Luca. Veramente bella, veramente. Ma è elettrica, tre ruote, finché non è che ti cambi di fermare le semafore, capito di metterti in terra. Ti fermi tranquillo, è di lusso, per fare commissioni di lusso. No, già è bella, sì, già la conosco, l'ho vista sulla pubblicità. E poi questa non è che devi pedalare né nulla. Questa ti fermi e anche salita. Acceleri e torna a passi, tranquillo. Se ti butta, a te va bene. Ripeti, ma noi devo fare una telefonata, arrivo subito. Se si muti. Ehi, acqua. Pedalo e ritorno. No, con quella no. No, comunque già va bene, dai. Va bene in città quelle motori. Vanno benissimo, benissimo quelle. Ma poi hai visto un grande cellino? L'hai pesa dalle Eurospie. E io stai riuscendo a tratti tu. C'è la batteria scarica. Guarda un po'. Adesso va bene. Magari come premo, boh. Aggiunto, grazie a Navappone, un carrellino. Andiamo via le Bosciotorra e la notte verso la 1 alle 2 e facciamo Mambassa. Guarda che se voglio lo trasformo in sidecar. Basta che mi ordino l'altro pezzo e tutto a bolloni. Va da sola bullunata, mi danno lo schema con lo scheletro, no? E posso farla a tre posti anche, e a due posti, ma posso usare pure tre passoni. E noi ti siamo risultati. Ma sta cosa è un puma e camotto, grazie. Ehi, c'è troppo, c'è dai che adesso nel telefono non lo so se ce l'ho. Oh, il video, se no te l'avrei mandato, e l'avevi visto, da lo scute così a questo tipo, no, ha ordinato il pezzo, ce l'ha, e l'ha fatto a sidecar, bella vita. Allora, meglio così, vai qua. A Sardegna 1, oggi c'era l'UFO in pubblicità, 30, mi pare 30 euro al mese. Però lo pregio non l'hanno detto, ma è uno scooter come quello che hai visto stamattina con Manuel. Però non hanno detto il prezzo, sicché hanno detto 30 euro al mese in Sardegna, amico. Così. Il prezzo è 1250 euro. 2 euro, e poi non mi piace ne manco. C'è il pezzo posteriore dietro, cazzo bocca è fea. Ce ne sono di meglio, guarda che ce n'è anche come la Vespa, l'ho vista, sembra la Vespa proprio, la Vespa, fare la batteria. E ormai l'elettrico sta andando dappertutto, Sta andando dappertutto l'elettrico. E poi ce ne sono anche tipo quelle moto che ci sono adesso, tutte a batteria, che adesso non c'è neanche il tuo numero qui di WhatsApp. Sarà che avrei mandato qualche filmino di queste moto. Mi ha girato un bel filmino di così, di cercando sempre la migliore. Sì, già lo so, quei filmini che mi mandi tu. In tuo braccio ne ha girato uno preciso. Cazzo di tuo braccio. Comunque, no, cercato di tutti i gare diving. Ma bella, ce la sono un sacco belle. Oh, grazie, con chi c'è il tuo braccio, buttava cicciolina mia a fare la trombettiera. Tu pure lo sai. Ah, cos'è lui? Tu pure lo sai. E allora? Lo guidava e cicciolina faceva la trombettiera. Ma adesso ce l'ha pigliata così, Graziano. Comunque ce l'ha un sacco di gente, ce l'ha. Anche qua a Sassari parecchi ce l'hanno, però ce l'hanno quella poltroncina e a me non mi piace. A chi da voi poi ti puoi usare solo tu, quella che c'è la piazzetta, non mi piace. Sarà bella il pezzo di davanti, il frontalino, ma da retro non mi piace. E poi posso giurare una bassa ocla alla guida. E quella mia puoi sedere in due. Te c'è lui, il frontalino, ma cos'è? Il frontalino estraibile? Ah, sai cos'è? Che la poltroncina, non si è abbigliata con la poltroncina, se non telefonava, Rocco si freddi. Allora, se non si trova la poltroncina. Seria. Io gioco sicuro, grazie a fare i cui figliuti a chi tutti vuol reggi con chi c'ha motto, Cazzo, si ha detto che nella lampa del dottore, l'odottore mio era Mazzendi, Ocla. Sì, ora te l'ho appena comparata, mi ciu ciu. Ma l'odottore mio, la dottor Cavaliere era Mazzendi. No, ovvio c'è un'attacca di batteria, non mi sentite più. Cos'è che hai detto, Lu, che beh, Graziano sempre fa per i denti. E ho un'attacca di batteria, se non mi sentite più passate il 27. Ehi, già è già acceso il 27, non c'è problema. Come ti vengo lo smettere, le muovisci. Vabbè, tu sci. No, io sono qua. Tu sci, Emanuele. Vabbè dai, che io vi saluto che devo fare cosa adesso. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao Luca, ciao a tutti quanti, anche chi sono in ascolto. Ciao Claudio, riprendi. Ah, grazie, dai, ci sentiamo, dai, fatti sentire, siamo qua, siamo al 23. Ciao, un abbraccio, vai tu. Ciao, grazie, domani devo fare un trasporto di 2 metri cubi di sabbia, mi sembra arricchi. Un carrellino bisogna ordinare, beh, pure un carrellino, mi. Ma vai. Eia, da che carrello c'è? Cazzo, un articolato diventa questa volta. Allora, mica si deve caricare la sabbia. Basta con la gota, lo lei a rogerire, 7-8 gattarelli e può ributtare in aro mattessimi. Cazzo, ce la vede, Cla. E poi che bella. L'ho vista in qualche, adesso non mi ricordo dove, questa a tre ruote. Però l'ho vista così. C'è bella, caspita, sono contento per Graziano, manco va una cosa bella che rimbiati. E te l'ha pigliata, basta cazzo la bombola di ossigeno. Ah, pagisci, che va lo gestello, buro. E allora, a che mattina andate all'autotori con la bombola di ossigeno a 25 litri? Grazie, stai attento, no, non pigli a forse prima si godi la bombetta, mi. No, chi va? Mi devo ordinare il carrello, a chi quando ando a fare il pizza, piglio sempre un bel e mi tocca fare i viaggi. Ah, così, tu stai attento alle voci, mi. Manuè, controllalo, sia che piglia che forse si godi la bombetta della bombola. Guarda che grassa nell'occhio, la bombetta di rovino, che bombetta di ossigeno, Guarda che è ammortizzata, è bene pure, adesso ti va due ammortizzatori, 20 anni. Mi già l'ha vista Luca. Via, grazie, fa un po' di fuoristrada. Un circolo, così non fai pericolo con i ricaggi. Ma fa fuoristrada, lui fa tirarà. Così stanno andando al circolo, non cacci, non hai compreso, tornando a casa. Ah, si può cadere direttamente la poltroncina. Basta la giurata, pure. Luca, sotto il sedile c'è anche la cinghia, amico, come della macchina. Niente, sa Tommaso e no, che per me. Andiamo, hai cosa, grazie, ma è un casco da ribunì. No, non è obbligatorio, però è facoltativo. Se vuoi te lo metti, se no no, non faccio nulla. Tu puoi dire, grazie, davvero a Claudio, sia che piglia che paro in pieno. No, va bene, che vado. Alla prossima, saluti a tutti, ciao Claudio. Ciao, grazie. Ah, Manuè, sei taggato, grazie, piglia che paro in pieno. E chi si vede un problema di chi morto? Ciao, grazie, sentiamo, dai, alla prossima. E quello è il problema di quelle, non sono né morte né biciclette, cioè, quindi non si vuole il casco. Non si comprende più nulla dai carici. Grazie, e come te la moto, cammina come te la moto, quasi, se ti vedi, e non vi può il casco. E vabbè, ma non me ne frega niente, io per la sicurezza me l'avrei messo lo stesso, cosa me ne frega? Io lo stesso, c'avevo quella di mio cognato, la stessa batteria, lo scooter, ma casco non ve ne vuoi, Givi, casco anda a 20, 25, quasi. Sì, vabbè, ma Manuè, anche se cadi a 20, a 25, capito, secondo come fai, come cadi, ti scebbi deci, quindi io per la sicurezza, anche perché lui è una persona grande, me l'avrei messo un caschettino piccolo che non sia ingombrante, però me l'avrei messo. E una vaccinella. Ma Casarella c'è buono in capo. Adesso che c'era uno che non c'aveva la misura del casco per questo qua, vada un gambo, un gaso, un gometto, un coso, e si è fatto, si è preso il gaso di scolapasta in capo. Magari era bucato, ma così non li faceva nuda l'ugato. Amico, e questo qui non c'era la misura di questo casco qua. E cazzo lui lo ferma e gli ha detto, e cazzo io non ne ho trovato caschi per la misura. E già perché cresco la pasta, cazzo, che disco la pasta in ferro, con i pirini. Tanto Beppino Biga ce l'aveva fatta un casco di legna, con le mascelle, solo che invece fallo dondo ce l'aveva fatto quadrato. Sì, Ciccio, Graziano. Oi. Andiamo. Papà! Ah, mi ha mandato la foto, cazzo. Bella. È una Vespa a tre ruote, sembra, cazzo. Eia, cazzo, sembra una Vespa. Davanti sembra una scooterona, sembra. Cazzo, sì. Vai piano, grazie, vai piano! Giulio! Ciao Manuel! Ciao Claudio, ciao Luca! Grazie, non corri troppo, Non mi dire che mi senti anche tu, Giulio! Certo che ti sento! Con le orecchie però! Sono col portatile con l'antenna che ho fatto, autocostruita. Graziano si è pigliato la moto, va la moto a tre ruti, infatti la palla non si chiama più Guffo, si chiama Graziano tre ruti. Ah, così è, bubu. No, ma già me l'aveva accennato un po' di tempo fa, che si aveva usato la macchinetta senza patente di dietro. E vabbè, d'altronde ci vuole anche quello. Dai che te lo fa Graziano, ma la baracqua pirai Graziano, pagando baseva. Non risponde. No, ha chiuso mi sembra, o giù. Pare la moto di chi c'è che porta lo pane romanzano all'Erospin. Capita, il telefono ce l'ho giù però. Non lo posso vedere in questo momento, ce l'ho nel piano di sotto. Il telefono l'ho lasciato lì. A chi va via troppe cose in mano, poc'anzi. Mi stavo mettendo a posto il manometro del coso, del compressore, che l'ho comprato nuovo. Perché mi si era rovinato, dunque perdeva. E allora l'ho comprato nuovo da Bricco, me l'ho trovato. 12 euro, e va bene, è anche bellino. non te l'ho mandata, guardala. Un pace, Luca, quello lì. Bello, non l'avevo mai visto. Tu. Ehi, mi senti? Ehi, ha un pace. Ti piace? Sì, 23 canali, ma funziona alla grande. Sul microfono, però l'ho messo qua per giusto per figura. Io c'ho il 23 canali, però il mio è degli Inuiti. Sempre tipo così, capito? No, sono belli, a me piacciono un bel vintage. Ne ho 3 o 4 e li uso, Mi poi se andiamo sul 23, se non tardate, ti ho ragione, sono già le 7 e mezzo, devo chiudere e vado a portare il cane. Se andiamo sul 23 mi uso quello. Se vai sul 23, dai, andate sul 23. Ehi, dai, tanto grazie non ha chiuso. Luca, perché a me tu non mi senti bene col PMR? Sì, ha detto che ti sente. Ok. No, anch'io a lui lo sento bene. Eia! Ehi! Manue! Stava positivo, però qua tracciato. 5 a 6.